sulla polemica di Ronaldo che ha violato l'isolamento, come è andata a finire poi? Quasi con tutto l'affetto in questo momento, diciamo. Altro a cui pensare. Diventa veramente, diciamo, no, per me. No, le dico, non ci siamo sentiti, ecco, se vogliamo, vogliamo dirlo così, non ci siamo chiamati. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non ero preoccupato prima perché le prestazioni per me sono state sempre molto positive. Sarà un'annata strana, anomala, però al tempo stesso non dobbiamo prepararci per affrontare tutte le difficoltà nel migliore dei modi. Oggi ho fatto un po' di cantiere, un po' di esperimenti e quindi magari abbiamo perso anche un po' di distanze, di situazioni che non siamo mai riusciti a concretizzare. Che non sempre dopo, quando prendi i cazzotti nel muso, ti va bene e ti si gonfia il muso, dopo bisogna mettersi i punti, noi i punti ce li siamo messi l'altro giorno. E oggi la stessa roba, il primo tempo non si può regalare. E veniamo qua e vogliamo che Benevento ci metta il tappeto rosso, no? La mia squadra non c'ha 11 punti, la mia squadra in questo momento c'ha 12 punti in 4 partite. Quando giochi contro di loro è sempre dura, è dura per tutti, però potevamo fare sicuramente meglio. Abbiamo fatto un primo tempo un po' troppo attendista, eravamo poco aggressivi con i centrocampisti, però le occasioni migliori credo che nel primo tempo siano state le nostre. Nel secondo tempo, dopo il gol loro, c'è stata una buona reazione, però non dobbiamo prendere lo schiaffo per reagire. L'avversario credo che assomiglia un po' al Milan, credo che sarà una partita aperta con due squadre che cercheranno di mettere in difficoltà i propri avversari. Let's go. E a Pioli, che avete sentito per ultimo, aggiungiamo le notizie dell'ultima ora, cioè Milan che giocherà senza Donnarumma e Oge, entrambi risultati positivi al tampone, dunque non ci saranno. Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato e il Radio Pardo Tweet. Ciao Pier. Ciao, adesso parleremo di campionato e tutto il resto, però visto che insomma c'è stato un DPCM e proprio l'altro giorno parlavamo con Mauro Berruto, poi ci siamo sentiti, c'è tutta una chat, è quella anche che in queste ore sta parlando di cultura, sta scrivendo i vari ministri per insomma fare in modo che si decida con razionalità, con lucidità. Il tema è sempre quello, ed è il rispetto della dignità dello sport, per cui si può anche decidere, può essere anche giusto, può essere anche sano. Lo sport da questo punto di vista non credo che abbia, conosce le regole, ecco. Lo sport conosce le regole, sa anche che alcune cose possono essere interrotte in un momento particolare come questo, però ci deve essere il ristoro per le società sportive, ci deve essere il ristoro per le famiglie, si deve considerare lo sport per quello che è, cioè anzi questa può essere un'occasione per mettere i famosi puntini. Io non vorrei mai più sentir parlare di sport contrapposto alla sanità, sport alla scuola, contrapposto alla scuola e a tutte le altre cose, non è da contrapporre proprio a niente. Per lui ieri ti dico la verità, ho fatto una giornata proprio da ultimo giorno prima, anche se poi in realtà si può continuare a fare praticare tutta una serie di sport in questo momento, però insomma sono andato a vedere la Virtus e ringrazio la Virtus per avermi invitato. Insomma 100 persone in un pala euro da 11.000 posti nel luogo in cui fu stabilito il record italiano di presenze per una partita, esatto, la famosa, esatto, finale scudetto, lo sappiamo bene. Allora, la mattina il golf, che è un luogo per chi lo ama, insomma perfetto per il distanziamento sociale, cioè un modo veramente fantastico in questo momento, non ce ne sono molti, per poter vivere un po' di tempo libero con tutte le distanze giuste e facendo i chilometri, passeggiando, facendo attività sportiva che fa bene. Andiamo sul campionato. Andiamo a presentare il nostro ospite di oggi, che peraltro è un vecchio caro amico, in modo sonoro. Sono Alessandro di Padova. Sto in un paese appena fuori Padova che si chiama Rubano. Ancora oggi la figurina di Massimo Mauro con la maglia della Juventus del 1983, credo, è attaccata sulla traversa della porta del campo di allenamento, naturalmente senza reti, perché del campo di allenamento della C Rubano. Beh, questo gliel'avamo già fatto sentire a Massimo Mauro. Ciao Max. Ciao. Peccato solo che su quel campo oggi non giochi nessuno, Massimo. Dove è appesa la tua figurina. È un peccato davvero. Poi essere in una porta senza reti è una soddisfazione enorme. Lì c'è il vero divertimento. Magari sarà anche un campetto di periferia, non un paesino piccolo. Sì, è una soddisfazione, devo dire. In provincia di Padova. Senti, ci vediamo stasera alle 9? Sì, stasera facciamo una cosa bellissima. Sono veramente contento di essere riuscito a mettere insieme questa iniziativa. Siamo su Facebook di Aisla, ma anche di Del Piero, perché sarà ospite Del Piero e parleremo di ricerca e di sport. Con la Fondazione Viali Mauro. Sì, con la Fondazione Viali Mauro facciamo una raccolta, una iniziativa di raccolta fondi, perché non potendo fare la nostra gara solita, che era, diciamo, l'evento principale di raccolta fondi, dobbiamo dire alla gente che non ci si può fermare per finanziare la ricerca. Quindi c'è Garrone, c'è Mario Melazzini, che è un ricercatore straordinario, che è presidente di Arisla. Conosco bene. C'è Del Piero, c'è la figlia di Signorini, che viene con noi, perché poi racconteremo ora stasera come mai l'abbiamo invitata, e c'è Luca Vigliani, ovviamente. Fantastico, ci vediamo stasera alle 9 su Facebook. Grazie. Ma ci mancherebbe, Massimo. Invece ci sentiamo adesso per provare a esaminare i temi del campionato con la Juventus, e si parte da lì, cioè dall'ultimo risultato a disposizione di ieri sera, che è tornata ad una certa confusione rispetto a Kiev. Io stamattina pensavo ci fosse stato Sarri in panchina e non Pirlo, avremmo già una sollevazione social nazional popolare. Però se la merita un po' di tempo, un po' credibilità, vista la carriera che ha fatto e visto cosa ha vinto la Juventus. Io credo che non deve mettere la squadra come ieri, senza grinta, senza intensità, senza cazzimma. A Napoli c'è questo termine che secondo me è straordinario, no? che rappresenta proprio, diciamo, quello che le grandi squadre non perdono mai, e cioè picchiare un po' più degli altri. Secondo me la Juve non lo fa. No. Ieri proprio non l'ha fatto. Il Verona li ha picchiati, ha giocato meglio e ha rischiato di vincere, insomma. Poi è vero che la Juve ha avuto un po' di occasioni, però la Verona secondo me ha giocato meglio. Verona mi sembrava un piccolo Liverpool, Pierluigi. Beh, Verona innanzitutto è forte, questo va detto, ma non può essere un alibi per la Juve, perché no, sicuramente il rendimento di ieri non è all'altezza. Non sembra anche a te, Pierluigi, che la Juventus non metta più tutta quella soggezione che forse discuteva prima? Ma è una fase di transizione, sono cambiamenti solo se spaventano, cantano il Sonic, un momento molto torinese, magari Busta è un po' più granata, ma insomma, so che sai che c'hanno un derby al loro interno, però insomma i cambiamenti spaventano sempre, la Juve i cambiamenti li ha fatti l'anno scorso con Sarri, li fa quest'anno a maggior ragione con Pirlo, li fa anche negli interpreti, è una squadra che sta cercando ma in maniera molto, molto precisa, sta cercando di cambiare un po' pelle, perché si era forse annoiata, non lo so, a vincere sempre, ma senza riuscire a essere un po' più glam a livello europeo, un po' più bella, un po' più estetica. E quindi è nato questo tentativo qui. Con Sarri le cose non sono andate, essenzialmente, secondo me, per un'incompatibilità caratteriale. Pirlo è un rischio ancora più grande, perché è chiaro che Pirlo rispetto a Sarri, al di là di quello che dice Massimo, che è assolutamente condivisibile, cioè è una leggenda del calcio mondiale, ed è un ragazzo di rara intelligenza Andrea Pirlo, quindi ha diritto assolutamente a un po' di tempo, però è ovvio che è un rischio, sono cambiamenti che spaventano, perché stiamo parlando di una persona che ha fatto la prima panchina della sua vita in occasione dell'esordio con la Samp alla prima giornata di quest'anno, per cui un po' di tempo ci vuole. Dal punto di vista tecnico non è la squadra con le certezze che aveva nel passato. Questa è una squadra paradossalmente, non so chi lo diceva ieri, forse Nerò, più sarriana di quella che ha avuto Sarri un anno fa. Però certo è una squadra che deve ritrovare i suoi equilibri, e oggi saremmo intellettualmente disonesti se dicessimo, se facessimo finta di niente. Cioè, è deludente la prestazione di ieri, sarà deludente la prestazione di Crotone, ma lo sa pure Andrea Pirlo, ma lo sa pure Agnelli. Sono deludenti anche i risultati, ha perso pareggio. Ma sai cosa può spiegare proprio dal punto di vista di come si affronta la partita? Questo è il punto, proprio perché sono stati tanti cambiamenti condivisibili, perché c'è grande tecnica in molti giocatori, però se non corrono più degli altri, picchiano più degli altri, cioè non possono fare dei risultati e soprattutto non possono giocare bene. Quindi ecco, sono un po' imborghesiti secondo te, Massimo? Giocato sulle punte, diciamo. Siamo una Juventus un po' imborghesita? Un po' sì. Invece volevo chiederti di quella che ovviamente a entrambi, partendo da te Massimo, la notizia del weekend, il dato politico come piace dire a Pierluigi, è secondo me il cantiere bergamasco di Gasperini. Ho fatto un po' di cantiere, alla fine abbiamo perso. Beh, ma noi continuiamo a dire che l'Atalanta, e io lo dico anche oggi, l'Atalanta è in corsa per questo strano scudetto, perché dove sono tutti in corsa e non è favorito nessuno, è la notizia, seconda sconfitta consecutiva dell'Atalanta, perché paradossalmente 4-0 di Napoli ci può stare, no? Nella logica del campionato, delle nazionali, di un Atalanta che ogni tanto un giro di giostra se lo prende pure e fa bene, cioè non c'è niente di male. Però questa sconfitta, mentre devi trovare continuità per stare lì al vertice, a me un po' ha sorpreso. Proviamo a fare un ragionamento. Gasperini è stato straordinario a Genova, sta facendo cose pazzesche all'Atalanta, ha fatto cose pazzesche all'Atalanta. Non è andato bene all'inizio. Per vincere lo scudetto, i cantieri un po' te li devi dimenticare. Stare a un certo livello, gli esperimenti non li puoi fare, soprattutto se poi perdi. Ed è un peccato che l'Atalanta, perché già l'anno scorso ha buttato via 4-5 partite, no? Con squadre molto più scarse dell'Atalanta, e l'ha fatto anche in queste prime 5 partite, insomma, no? Quindi secondo me Gasperini, se vuole lottare per lo scudetto, gli esperimenti li deve lasciare stare. Poi non so se li ha fatti per infortuni, per insomma Covid, per squalifiche, non lo so. Alle dichiarazioni che ha fatto lui mi sembravano più veri e propri esperimenti. Sì, sono esperimenti da cambiare troppo. Sai, è sempre difficile, perché certe volte a Conte viene rimproverato in certi momenti di cambiare poco, anche dal punto di vista del modulo. A Gasperini l'altro giorno si è autorimproverato di cambiare molto. La verità è che poi chi vince ha ragione, c'è poco da discutere. Ci sono alcune cose, secondo me, durante l'anno che gli allenatori provano e che possono essere utili per la crescita della squadra. Poi bisogna vedere se i risultati arrivano subito, ti accompagnano e ti danno anche forse più energia. L'Atalanta è abbastanza strano e difficile da valutare, perché sta alternando prestazioni molto positive. La vittoria in Danimarca non deve illudere, però è vero pure che comunque andare lì sotto la pioggia contro una squadra in trasferta all'esordio di Champions League e imporre il proprio gioco con quella personalità, insomma, non è da buttare via. Però Pier, ci vuole in una stagione così strana la parola magica è continuità, nei risultati. Certo, ma infatti, però deve vincere lo scudetto, voglio dire, deve lottare per vincere lo scudetto. Ma anche secondo me, no? Sì, secondo me. Sono d'accordo. Probabilmente farà qualche esperimento in meno. Forse il cantiere lo chiuderà Gasperini, anche perché, sai, lui adesso può sembrare un paradosso, perché l'Atalanta è una meravigliosa provinciale, la provinciale più con più presenza del campionato di Serie A, credo, la città non capoluogo di regione con più presenza del campionato di Serie A. Ma il paradosso è che ormai ha una squadra dal punto di vista anche della struttura e della profondità della rosa enorme. anche dal punto di vista societario, perché comunque ha due giocatori per ruolo, quindi questo da un lato è molto positivo e dall'altro magari in certi momenti può portare in una stagione così intensa e così stancante a fare un po' di cantiere, come dice Gasperini. L'altro giorno non ha funzionato. No, non ha funzionato. Un'ultima cosa che volevo chiedere a Massimo, considerazione che ho fatto ieri, Pier, quindi tu la sai. Sull'Inter si cerca sempre il pelo nell'uovo, no? Come qualcosa che non va anche in una giornata tutto sommato tranquilla come quella di Genova, fosse stata un'altra delle big, in una partita come quella avremmo detto ha vinto da grande squadra, senza troppo spettinarsi, senza troppo sudare, ha creato le sue occasioni, a Lukaku che la butta sempre dentro, invece siamo qui a dire lui, Lautaro prende a bugni la panchina e però Eriksen così non va bene. Non mi sembra in questo caso ci sia molto da dire sulla vittoria dell'Inter, no? Mi sembra un buon segnale. Facendo una critica ai tuoi colleghi, Carlo. Ma non lo so, io esprimo il mio pensiero. Sì, no, però l'Inter ha sempre avuto la sua identità, ha sempre fatto tante occasioni da gol in tutte le partite, poi può giocare meno bene, meno esteticamente, meno bella e tutto, però l'Inter è una squadra tosta, è una squadra difficile, poi ha avuto la difesa sempre in emergenza, ha dovuto girare sempre i giocatori, quindi qualche gol ha preso, no? Però l'Inter ha un'identità, a me piace perché i giocatori sembrano telecomandati, sanno cosa fare, troppo secondo te? Troppo? A me piace. Troppo telecomandati, troppo schematici. Poi Conte io so che li lascia liberi poi dalla metà campo in avanti, però arrivare lì c'è un'organizzazione. Poi dalla metà campo in avanti, insomma, a questi livelli poi i giocatori che seguono l'allenatore. Se devono andare a destra per dribblare e tirare in porta, non è che vanno a sinistra. Perché sì, e alcune cose secondo me nascono anche dal talento dei giocatori. Per esempio è vero che l'Inter sta diventando un po' Lukaku dipendente, perché Lukaku è straripante. Lukaku è un giocatore di un'altra categoria per questo campionato, non tecnicamente. Ma sei sempre dipendente da quei giocatori lì, però. Alla fine, sì, no? Però voglio dirti: cioè, quando tu hai quella forza fisica e quella disponibilità al servizio della squadra, perché la cosa incredibile di Lukaku poi è quella tecnica. Io sono fissato ufficialmente, ma è da un anno e mezzo che sono fissato, da quando sentivo critiche che trovo assurde. E devo dire che, nonostante il fatto che fossi ben disposto e fissato, mi sta sorprendendo in positivo, perché vedere una disponibilità nei confronti della squadra, una generosità così da un giocatore che è probabilmente il giocatore più importante in questo momento all'Inter, sì, quindi uno che potrebbe anche tirarsela un po', e questo però poi alla fine finisce, cioè è inevitabile andare su Lukaku. Sì. Qualche volta forse l'Inter lo fa troppo, dovrebbe trovare qualche soluzione in più, ma è inevitabile andare su Lukaku, perché veramente è straripante, è un pivot, è un giocatore che apre spazi, che combatte, e che comunque lotta. Comunque guarda, io credo che tu sia sempre un po' dipendente dalla tua superstar, lo sa bene anche Massimo che ha giocato con Zico, Platini e Maradona. Massimo, ci vediamo stasera su Facebook con te, Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero e tutti gli altri. Grazie a te Max. Allora ci fermiamo un istante e poi abbiamo un altro ospite che pure presenteremo in modo sonoro un po' inedito. Ma considerato che lo sport dilettantistico è stato bloccato, Bernardeschi non dovrebbe andare dritto dritto fuori rosa a tempo indeterminato, tipo fino al 2096? Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono contento che abbiamo fatto gol tutte e due, però dispiace per il risultato. Ma in quel momento lì ti è venuto più quasi da mandarla a quel paese o gli hai fatto i complimenti a tuo fratello? No, gli ho detto una cosa in napoletano, ti dico la verità, rivolta pure verso mia mamma, quindi ti lascio un po' immaginare cosa ci siamo detti. I fratelli Insigne. Io adesso voglio chiedere ad Antonio Filippini, che saluto, cosa diceva invece in bresciano suo fratello Emanuele. Ciao Antonio. ciao a tutti. Ma ormai non ci ricordiamo più perché è passato tanto tempo da quando abbiamo smesso di giocare, per cui però dai, qualche accidente sicuramente ci siamo mandati. No, perché la storia dei fratelli Pierluigi è insomma, oggi i fratelli Insigne, l'altro ieri Franco e Beppe Baresi, Antonio Emanuele Filippini, Pippo Simone Inzaghi, i fratelli Lucarelli, insomma. Lo so, però insomma, ieri a un certo punto veramente sembrava 1-0 Insigne, il Napoli era in svantaggio, non so chi l'ha fatto, forse gli autogol. E poi no, la panza è che cosa si prova a giocare contro il proprio fratello? Poi vabbè, voi avete un rapporto ancora più stretto, immagino, perché da gemelli è ancora più forte, forse più profondo, più viscerale. Sì, sicuramente, perché hai anche la stessa età, per cui condividi tutto. Quando sei invece fratello, magari hai 2-3 anni in più o in meno, non condividi tutte le stesse cose e anche le stesse amicizie, per cui abbiamo provato delle grandi sensazioni di divertimento, ma anche di gioia e dolore, perché sono sicuro che i fratelli Insigne ieri, per dire quello del Napoli, era contento della vittoria, ma un po' di cuore gridava un po' di dispiacere per il fratello che aveva perso, perché è normale, insomma, si spera sempre che i propri familiari facciano bene. Ieri purtroppo non è stato così. Però se giochi contro, te lo trovi davanti in campo e devi mollargliene una, non è che ci pensi tantissimo. No, assolutamente. Anzi, ricordo, io ho giocato contro mio fratello, io ero a Brescia, lui era a Parma, ci siamo affrontati ed eravamo anche sulla stessa fascia, io ero da interno destro, lui da interno sinistro nel Parma, e ce ne siamo andate di santa ragione. Ma perché è giusto così? Perché quando entri in campo, come si dice, non bisogna avere né fratelli né amici, e quel giorno è successo proprio così. Sì, senti Antonio, poi ti lascio Pierluigi. Altri tuoi amici bresciani che adesso sono alla Juventus, tipo Pirlo e Baronio, come li vedi in questo momento? Ma li vedo che stanno sentendo un po' la pressione, perché la Juventus è abituata a 5, 6, 7 partite di fila, e con 3 pareggi ovviamente se alla Juve senti la pressione, ed è normale, è un nuovo ruolo che ha Andrea, perché giocare un conto, allenare è un'altra cosa, e sentirà questa pressione, ma sono sicuro che la Juve ritornerà ad essere la Juve sotto la guida di Andrea e di Roberto. Brescia Connection, Pierluigi. Sì, infatti vorrei continuare questo momento teletutto, salutiamo gli amici sì, del canale di Brescia, chiedendoti una cosa su Balotelli, se pensi che ci sarà una redenzione, un ritorno, e poi ti voglio, tu sei springstiniano più di me, bello l'ultimo, no? L'ultimo album, non perché siamo fan, ma è veramente bello, ha riscoperto dei suoni anni 70, per 70, cui la A-Street Band l'ha spremuta al 100%, ed è veramente un ottimo album. E soprattutto un po' Nebraska, no? Un po' Nebraska, poi sì, questa sì, malinconia. Sì, sì. Poi Springsteen ha questa... Che vabbè, scusa, adesso poi veramente fra un po' chiamiamo Gigi Telefone e la Cagnola, e chiedo scusa per la digressione, ma Springsteen ha questa capacità incredibile di riuscire veramente ad adattarsi ai tempi, e in questa malinconia che comunque penso tutto il mondo sta vivendo, e questa inquietudine... Sì. Quest'album qui è proprio in sintonia con questa, sì, con questo senso malinconico. Senti, invece malinconia e Balotelli, che facciamo? Siamo messo la speranza, oppure? Ma diciamo che la speranza che cambi è ormai quasi data al 0%, perché ormai fa parte del suo carattere, questo modo di essere. Che trovi una squadra, sono sicuro che una squadra la troverà, perché comunque le doti le ha, e a qualche squadra sicuramente può aver bisogno, insomma. Sì. Cioè, ce lo auguriamo ancora tutti, pensa un po', no, questo, cioè di rivederlo, sì, a certi livelli, certo. No, però la più grande cioè il talento più grande buttato via che io ricordo dopo quello dell'amico di Pardo, insomma, più o meno. Sono diversi, nel senso, anche proprio come comportamenti, con tutto, sì, che poi io auguro il meglio anche a Mario, ma insomma sono proprio due forme di irregolarità calcistica molto diverse. Alla fine Antonio è uno che ha pagato così una sua esuberanza, tantissimi errori, per carità, io non è che voglio assolvere, noi abbiamo questo patto che siamo amici, ma non è che dobbiamo parlare per forza bene uno dell'altro, perché sennò non vale più. Quindi però insomma Antonio alla fine ha commesso dei peccati, soprattutto durante la prima parte della sua carriera, quando era molto giovane, probabilmente si è sentito troppo forte in relazione a quelle. Era quello che poteva diventare, ha perso delle occasioni sicuramente. Resta il fatto che ha avuto anche dei ritorni, cioè comunque stiamo parlando di un ragazzo che no, resta il fatto 2012... che l'apice quell'Italia Germania Cassano Balotelli era a Varsavia, scusa, Kiev la finale, lì era a Varsavia e io c'ero anche tu. Sì. Poi, è vero, non ci conosciamo ancora, e no. Varsavia meraviglioso, Balotelli meraviglioso, e poi la finale, vi ricordo quella lunga attesa, perché insomma io ero chiaramente, come tutti gli italiani, eccitato, in più ero anche molto emozionato per Antonio, nel senso che mi avrebbe fatto estremamente piacere, che anche dal punto di vista personale, perché Purtroppo quella finale non venne mai giocata, giusto? Purtroppo l'hanno giocata, la ricordo. No, non venne mai giocata quella finale dell'Europeo. Grazie Antonio. Ciao, grazie. Antonio Filippini. Ciao. Io ringrazio anche Pierluigi Pardo. Mando la borsa e mi collego con un altro Pier in rosa. Grande, i gemelli Filippini, i primi fan del boss. Mi dici. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. È stata una gara forse la più bella della mia vita. All'inizio c'è stato un po' un inciampo con Nakagami. Dopo lui è caduto e io ho avuto via libera davanti a me, e da quel momento in poi ho detto: si dà tutto fino alla fine. Thank you so much for continuing to believe in me, continuing to strive for perfection. It's such an honor to work with you guys. Thank you. La maglia rosa con Teio al tuo primo giro, tra l'altro. Sai, arrivare all'ultimo giorno, giocarsi una maglia è importante. Alla fine è riuscito a concretizzare il lavoro di tutti e sono emozionato di lui alla fine. Bisogna fargli i complimenti e dai, ci siamo comportati bene. Beh, belle anche le lacrime di Filippo Ganna, tra le altre cose della domenica, per la vittoria del compagno di squadra Gegenhardt, ma lui enorme protagonista di questo Giro d'Italia. Giro che non poteva che essere così strano fino in fondo. Pier Bergonzi, vice redattore della Gazzetta dello Sport, mio amico. Ciao Pier. Ciao Carlo, ciao, come va? Molto bene, e che per me è l'anima e la voce dello sport e del ciclismo, in particolare sulla Gazzetta. Dicevo, giro che non poteva essere più strano, no? in questo anno così strano. Guarda, è un anno strano, diciamo così, per usare un eufemismo, è un anno con risultati particolari un po' in tutti gli sport, e nel ciclismo ancora di più. Se pensi già al Tour de France, se partiti con la possibile vittoria di Bernal, che era il grande favorito, e alla fine ci siamo ritrovati con un Roglic che sembrava vincere fino in fondo, poi è spuntato Pogacar, grande sorpresa. A Giro d'Italia ci aspettavamo Nibali, Thomas, Simon Yates, e alla fine è stato in testa a testa tra i rapper coreani. Tra Tao e Jackson sono i nomi di due rapper coreani, infatti. No, beh, però... E alzi la mano chi di noi, prima, anche esperti prima del giro, avrebbe mai pronosticato un finale così clamoroso. Beh, no? Questo non si è mai visto nella storia del mondo, no? Due che arrivano pari all'ultima tappa, i Jay e Tao, i due rapper coreani, e vince quello che non è mai successo nella storia, ha messo la maglia rosa una volta sola, cioè quella più importante. Esatto, cioè mai era accaduto in tutte le grandi corse a tappe, mai, tra giro, tour e vuelta, due alla pari all'ultimo cronometro, e mai era successo al Giro che il vincitore vestisse una sola maglia rosa all'ultima. Anche perché, amico mio, ti sfido a farlo dopo tre settimane di corsa, 3.000 e quasi 4.000 chilometri, a fare, esatto, un tempo pari, nemmeno se ci proviamo ci riusciamo, nemmeno se, no, se facciamo, no, apposta. No, no, senti, no, no, no, lampo nel buio azzurro, Pippo Ganna, giusto? Ecco, in un anno invece devastante, perché a proposito di storie, non era mai accaduto di avere... nessun italiano nei primi cinque in tutta la storia del Giro, almeno un italiano è sempre stato nei primi cinque. Ha salvato la baracca, se così si può dire, perché non ha salvato per niente il settimo posto di Nibali, perché è troppo poco per un fuoriclasse come lui, e ci resta invece questo Pippo Ganna, che a questo punto diventa un grande personaggio. E io mi chiedo, ti chiedo, allargo la domanda a tutti, se un giorno mai Pippo Ganna potrà diventare quello che è stato Indurain, quello che è stato Bradley Wiggins, cioè un corridore con un grandissimo motore, grandi cronomen, che con una preparazione specifica, dimagrendo, sono riusciti ad andare in montagna al punto da poter vincere un grande Giro. Però così non vale, maestro, perché sono io che lo chiedo a te. Allora, io ti dico che ti avrei detto di no prima del Giro, ti dico di sì dopo questo Giro, perché la cosa che mi ha colpito di più di Ganna non è tanto quello che ha fatto a cronometro, perché ha vinto tutte e tre le cronometro, che sì, è benissimo, dopo del resto vinto, campione del mondo, ma quello che ha fatto a Camigliatello, appunto, Silano, perché lì è andato in fuga, ed era in fuga con tanti altri, e uno alla volta li ha staccati tutti, e poi quello che ha fatto nelle tappe alpine prima dello Stelvio e nella tappa di Manoni Campiglio, quando era ancora del gruppo selezionato, a dare una grande mano al suo amico Tao. Se Tao ha vinto, è anche perché dietro ha avuto ad esempio uno come Dennis, che ha fatto una cosa, sì, per me sorprendente, cioè sì, un altro campione, sì, del mondo a cronometro, che spiana lo Stelvio, fa il record sullo Stelvio e tira per tutto il giorno anche sul Sestriere, fino a staccare Kelderman. Tanto di cappello. Sì, nel basket si chiamano all around, cioè quelli buoni, sì, un po' perché fanno canestro un po' in ogni modo. Allargando il discorso, Pier, questo Giro dimostra, lasciamelo dire così, che se si fanno le cose per bene e nel rispetto delle regole, tutto si può. Ecco, questa è un po' la metafora e il messaggio che arriva da questo Giro, no? Cioè, se tu fai le scelte giuste al momento giusto, cerchi di organizzare una bolla che per quanto possibile ha funzionato, perché se tu pensi ci sono stati 8.000 controlli al Giro d'Italia, oltre 8.000 controlli, 21 tappe, quindi vuol dire 20 o più città diverse, una carovana che oscillava tra 1.500 e 2.000 persone che ogni giorno si spostano, e alla fine ci sono stati in tutto 12 positivi, 4 corridori e 8 dello staff. Se pensi a quello che sta avvenendo nel calcio, nel basket, nella pallavolo, quanti cluster, quanti focolai ci sono stati, tutto sommato il Giro, la sua scommessa l'ha vinta, e il messaggio che manda è: dobbiamo tutti imparare a convivere con questa pandemia senza per forza chiudere tutto. Senza per forza arrenderci, appunto, come, esatto, ti dico, nel rispetto delle regole si può, esatto, e questo vale per il calcio, vale dal calcio in giù o in su, in tutti gli sport. E si può metabolizzare anche il venerdì nero, nel quale sono stati i corridori a far fare l'unica brutta figura a questo Giro d'Italia. Sì, quella purtroppo è una pagina davvero da cancellare. I corridori che conosco io, che conosci tu, quelli a cui siamo abituati, non sono personaggi che si fermano di fronte a niente, anzi hanno costruito la loro leggenda proprio sulla capacità di andare oltre le difficoltà. Hanno costruito la leggenda grazie alle tappe come quella del Bottone del 56, del Gave dell'88, quelle erano condizioni davvero al limite. 13 gradi e pioggia sono, purtroppo, per chi fa in bicicletta, una situazione non solo accettabile, ma in qualche modo sono condizioni che fanno parte del gioco. Cioè, certo, certo. I più forti vincono anche perché sanno reggere la pioggia, perché sanno reggere al freddo, perché sanno superare questo tipo di ostacolo meteorologico, che è un ostacolo normale. No, ma come abbiamo sottolineato poi anche l'altro giorno, cioè il Giro d'Italia non è la corsa del paese, richiede un'organizzazione e una esposizione anche economica che non permette queste fughe all'indietro in questo caso. Ti chiedo ancora una battuta, Pier, sul, visto che poi ne parliamo, perché voglio affrontare la situazione, insomma, di chi fa sport di base anche sul fronte internazionale. Oggi è lunedì della rabbia dello sport di base italiano. Il tuo pensiero qual è? Capisco la rabbia e faccio fatica in questo momento però a schierarmi da una parte o dall'altra, perché ripeto, la situazione è davvero complicata, non è facile, le regole ci devono essere e vanno rispettate. Dopodiché io penso che, come ha fatto il Giro d'Italia, io penso che nelle palestre, nei palazzetti, nelle piscine sia possibile continuare, appunto, a fare attività rispettando le regole, cercando di mettere in atto tutto ciò che deve essere messo in atto perché si possa continuare a andare in un'officina a riparare le macchine, andare in un giornale a scrivere dei pezzi, andare in un bar a fare dei caffè e possibilmente andare in una palestra. È per questo che ho voluto allargare e usare come esempio il Giro d'Italia. Nel rispetto delle regole si può. Grazie Pier, a presto, ti abbraccio. A te, a presto. Ciao Pier Bergonzi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, traffico, e torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Fatelo presente anche voi che le palestre e soprattutto le piscine hanno fatto uno sforzo enorme questi mesi, adesso non possono ritrovarsi indietro, stanno facendo sacrifici e rischiamo seriamente la chiusura degli impianti. Ditelo anche voi che questo DPCM duri solo qualche settimana, non più di 2 settimane. Oh, questo è un WhatsApp di un ascoltatore che è arrivato 349-238-6666, ma sono davvero un sacco quelli che arrivano su questo tema, le mail che arrivano su questo tema e la rabbia che tutti, la frustrazione, perché più che rabbia, la frustrazione che tutti noi abbiamo addosso, ben compreso, per l'impossibilità in questo momento di praticare in qualche modo sport in Italia che non sia la corsa nel parco sotto l'acqua in questo caso. Allora, saluto e ringrazio Luca Torresan, che è direttore marketing e comunicazione di un colosso mondiale del fitness come McFit. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io la ringrazio e vorrei approfittare della sua presenza per capire, perché questo questa è la domanda che mi faccio, a livello internazionale qual è la situazione? Cioè sono in tutto il mondo in questo momento è tutto chiuso e non si può fare sport? No, in realtà no, adesso do magari un quadro più europeo. Sì, certo. Noi in Germania non abbiamo chiuso nessun centro fitness. In realtà ogni stato federale della Germania ha delle regole diverse. Ci sono degli stati dove, per esempio, è necessario sempre mettere la mascherina, altri in cui non è obbligatorio. Noi come azienda invece abbiamo deciso di renderla obbligatorio in tutti i centri fitness, proprio per garantire sicurezza ai nostri clienti, ai nostri collaboratori. In paesi come la Francia stanno facendo dei lockdown localizzati. In Spagna invece le palestre sono tutte aperte, ci sono delle restrizioni di orario e di limite, diciamo, di ingressi per contingentare, certo, gli ingressi. Certo. Ma sì, insomma, poi in Spagna ogni regione ha la libertà di decidere se anticipare o posticipare un'ora il coprifuoco, perché lì dalle 23 alle 6 non ci si può muovere praticamente, però non hanno chiuso le palestre. Gli unici paesi dove in Europa abbiamo dovuto chiudere sono Polonia, ormai chiusa da 10 giorni, a Praga abbiamo un centro Repubblica Ceca è chiuso da 2 settimane e purtroppo da oggi sono chiusi i 36 centri fitness che abbiamo in Italia. Conseguenze? Conseguenze, speriamo che questo secondo lockdown duri veramente poco, fino al 24 di novembre, perché insomma altrimenti la situazione diventerebbe, è già difficoltosa, certo. Sarebbe un vero problema per il mercato del fitness, certo. Noi abbiamo garantito da sempre, dal primo lockdown, i posti di lavoro, i nostri chiaramente collaboratori, lo faremo anche per questa seconda volta, ma qui c'è bisogno di un aiuto vero, concreto, reale da parte del governo nei confronti del mercato del fitness. Ecco, io le faccio ancora una domanda che è questa: lei ha la percezione, ha la sensazione che lo sport venga percepito in modo diverso in altri paesi rispetto all'Italia come importanza nella vita di tutti i giorni? Assolutamente sì. Soprattutto nei paesi nordici, soprattutto in quelli dove, al di là del fatto che la percentuale della popolazione che pratica attività sportiva all'interno di una palestra è il doppio rispetto a quello alla media italiana, c'è sicuramente più attenzione, assolutamente più attenzione. Non sono viste le palestre come luoghi, come una minaccia, ma neanche come qualcosa, neanche come qualcosa di cui si può fare facilmente a meno, il superfluo cui si può rinunciare così a cuor leggero, e questo è importante. Io la ringrazio, torniamo a sentirci aspettando tempi migliori. Grazie a Luca Torresan, dunque grazie davvero. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, e tutti voi siete convocati domani alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!